Io ti ho visto già, non so se in questa vita o chi lo sa, forse ad occhi chiusi. E appena ti ho incontrato, anche tu improvvisamente mi hai guardato, o avevi gli occhi chiusi. Ah, lo so, ci sono buchi nella realtà, angoli che non ci si va. Se non lasci quello che si sa, puoi entrare ad occhi chiusi. Nei pensieri dei bambini, con la luna nel buio dei cortili, silenzio ad occhi chiusi. Ora non lo so, ma ho qua pronto un bacio e te lo do, sempre ad occhi chiusi. E nell'immensità di questo silenzio rimarrà solo questo bacio. Ah, lo so, così ogni volta io ti cercherò negli angoli dove non si va. Se non lasci quello che si ha, oppure ad occhi chiusi. Nei pensieri dei bambini, con la luna nel buio dei cortili, e puoi fermarti ogni tanto nel silenzio ad occhi chiusi.